questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ti licenzio. In cerca di guai, donne, un telefono che non suona mai. Ma mi sto facendo un'idea che non fatemi dire quello che penso. Io mi penso che uno come Gagliani, per tutto quello che ha fatto, per come ha gestito in tutti questi anni questa società, bisogna avere un po' più di rispetto. Dopo io le donne non è che le vedo bene nel mondo del calcio, mi dispiace, ma a mio modo di vedere. A Gattuso possiamo riconoscere l'attenuante generica di aver detto questa sciocchezza tra il serio ed il faceto. Pierluigi Pardo, buongiorno. Buon 8 marzo a tutti. No, sei d'accordo con me sul fatto che ieri, tra l'altro, il nostro ospite Valentina Mezzaroma, che ha detto anche cose molto, molto interessanti, molto sagge. Io le donne nel mondo del calcio, le donne nella politica, le donne nell'industria le vedo e come. Ma sì, ma assolutamente. Ma è chiaro, il calcio nasce come uno sport in Italia, poi, perché ci sono dei paesi tipo negli Stati Uniti o nel Nord Europa ci sono molto anche le donne. In Italia nasce ovviamente come un fenomeno maschile e ci può essere, diciamo, un po' di prevenzione da parte di qualcuno, ma in realtà oggi ne sentiremo alcune anche di donne, e insomma ci sono donne che amano il calcio, che tifano, che capiscono di calcio, che giocano, insomma, che capiscono di calcio, assolutamente sì, insomma, quindi Non è una difesa, diciamo, non è l'ambizione di essere politicamente corretti, è no, proprio per che penso questo. Sì, e penso che Gattuso abbia fatto una dichiarazione estremamente maschilista e non condivisibile, ripeto, sì, con l'attenuante generica, ma io riconosco l'attenuante generica della dichiarazione fatta tra il serio e il faceto. Era invece molto serio Conte questa mattina, poi parliamo di tutto questo insieme. 800 24 00 24, Franco Piantanini, dottore di questo programma, Roberto Sgaltritti in regia. Era molto serio Conte questa mattina in conferenza stampa, invece allenatore della Juventus, il giorno prima della partita con il Bologna, che poi aprirà alla Juve la strada verso la gara più importante di questo periodo contro il Galatasaray. Beh, Conte. Io penso che bisogna sempre fare un distinguo, no? Ci sono delle regole da rispettare e quindi da punire, e poi c'è l'accanimento. Io penso che quello che è stato fatto sia un accanimento. Quando si trattano questi argomenti, come quello che si è trattato dei bambini, è facile fare demagogia, retorica, si fa di tutto, purtroppo. Quindi Conte parla di accanimento e di demagogia, ma dice anche un'altra cosa, mi pare, giusto? Da padre di famiglia dico da tanto tempo, lo sto dicendo, lo sto ribadendo, che bisogna migliorare il calcio. Quando dico che bisogna migliorare il calcio, mi riferisco a tutti i componenti, non solo a chi scende in campo o a chi sta in panchina, tutti, anche la comunicazione, che deve mandare dei messaggi positivi. Sperando magari che la prossima volta contro il Sassuolo, invece di quella parola, o parolaccia come la vogliamo dire, magari ci sia bravo, ogni rinvio del portiere, no, si dica bravo, ecco, sarebbe già un piccolo passo in avanti per tutti, e non cadremmo nella retorica, perché ripeto, fare retorica e demagogia in queste situazioni è talmente facile, ci si riesce poi benissimo. Sì, sono 3 giorni che ne parliamo, sinceramente io sarei anche un po' stufo, lascerei così al vostro commento le dichiarazioni di Conte. L'abbiamo trattato, sicuramente qualche ascoltatore ci tornerà. Quindi lasciamo la palla a loro, naturalmente, 800 24 00 24. Prima del traffico voglio invece darvi un altro spunto, farvi sentire una cosa, perché ieri sera a San Siro, in questo Inter Trapani 3-2, continuo a pensare anticalcio o comunque un controspot per il calcio giocare queste partite di Coppa Italia di questo tipo d'inverno a San Siro, 13.000 spettatori erano già tanti, però è successa una cosa molto curiosa. Il medico del Trapani si sta sincerando le condizioni del portiere, adesso con il Boschelli sta per appunto parlando. Ed è curiosa l'immagine dell'intera squadra che approfitta in pratica di questo soccorso a Marcone, eccola il dettaglio. Fatto una lezione tattica. In pratica sì, è fondamentalmente una sorta di time out, se vogliamo prendere a prestito un termine dal basket. Tutti a ridosso del tecnico che approfitta di questa pausa, una sorta di manovra. Boscaglia come Jason Kidd, ho raccontato l'altro giorno una storia di Jason Kidd che si è fatto rovesciare addosso la bibita dal suo giocatore, allenatore di Brooklyn Nets, basket NBA, perché non aveva più minuti di sospensione, quindi nel momento in cui si asciugava il campo lui ha potuto tenere a rapporto i suoi. Ieri più o meno stessa cosa. Marcone, portiere del Trapani, che finge un infortunio, e Boscaglia che chiama time out per riorganizzare la squadra. Come molto divertente. Ma sì, dai, sarà divertente. Mi sì, sembra, certamente, certamente. Mi sembra che un po' come l'auricolare di Garcia, sì, no? Sì. Cioè, mi sembrano quelle cose al limite del regolamento, diciamo, ma sulle quali che possono tranquillamente essere definite piccole furbizie, sì. La definirei creatività. Creatività, esatto, esatto. Tutti convocati. Una voglia. Put your number on this paper, cause I would love to date you. Holla at you when I come off talk. Ma mi sto facendo un'idea che non fatemi dire quello che penso. Io mi penso che uno come Gagliani, per tutto quello che ha fatto, per come ha gestito in tutti questi anni questa società, bisogna avere un po' più di rispetto. Dopo io le donne non è che li vedo bene nel mondo del calcio, mi dispiace, ma è un modo di vedere. Mentre le nostre ascoltatrici reagiscono, come intelligente e malizioso messaggio di Sara, ma se a Gattuso Barbara Berlusconi avesse proposto la panchina del Milan, scrive Sara, chissà cosa avrebbe detto in merito alle donne nel calcio. Paola invece scrive un messaggio da tifosa: se le furbizie creative le facessero i giocatori della Juventus se ne parlerebbe per un mese. Conte ha ragione. Paola, su cosa Conte ha ragione? Su quanto diceva il proposito dei bambini? Io la intendo così. Francesco Trento, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Io volevo fare un piccolo inciso su Conte. È bene che ci sia un pochino più di coerenza. Lui fa la premessa che parla da padre di famiglia, ma forse si dimentica che poche settimane fa è entrato in campo, ha aggredito probabilmente gli arbitri, e i bambini da casa le vedono queste cose. Ed emulano il Balotelli che simula o si fa la cresta, ed emulano anche il Conte che aggredisce verbalmente e insulta gli arbitri. Quindi bando alla retorica, gli attori primari in primis, e diamo degli esempi positivi. È molto semplice la ricetta, non serve tanto altro, secondo me. Sì, aggiungerei però che è molto difficile tenere sotto controllo l'adrenalina sul campo, quindi Non sarei dell'idea di prendere come parametro di riferimento gli atteggiamenti di giocatori, allenatori eccetera, e poi dire ecco loro si comportano così, allora anche i bambini sulle tribune si comportano in quella maniera. Secondo me è un po' troppa la distanza tra le due cose. Saluto e ringrazio Anna Billò. Ciao a tutti. Ciao Anna. Senti, ti senti toccata dalle parole di Gattuso? Ovviamente riferiti in prima persona a Lady B, Barbara Berlusconi. Gli abbiamo riconosciuto l'attenuante generica di aver parlato tra serio e il faceto. Però non siamo d'accordo con lui. Infatti, no, devo dire che non mi sento toccata, perché credo che sia stato un modo di Gattuso di stare molto vicino a Gagliani. E quindi magari poi con il suo modo di parlare abbia magari utilizzato una frase in generico, sì, che poteva risparmiarsi, ecco. Però no, toccata no, direi di no. Io leggo le ascoltatrici, i messaggi delle ascoltatrici invece sono toccate come? Sono arrabbiate. Esagerato. Vedi, ecco chi parla. No, perché conoscendo, credo che non si possono dividere le cose. È chiaro, se io dico le donne del calcio non c'entrano niente, è normale che tutti si arrabbiano, sì, secondo me, no? Oppure chi, le solite frasi che si sentono, no? Chi non ha giocato a pallone non può parlare di calcio. Ma no, queste sono questa è una grande sciocchezza. Ovviamente la diciamo perché non abbiamo mai giocato a pallone, quindi ci conviene dirla, però al di là di questo è una grande sciocchezza, credo che sia proprio una dimostrazione. Devo dire che Anna Billò, per chi non lo sapesse, è fra l'altro da questo punto di vista proprio l'appassionata di calcio numero uno. Tanto ci sono donne che poi per percorsi professionali sono andate a fare calcio della vita, perché è un po' capitato. Ecco, nel caso di Anna invece no, io l'ho scelto. Lei ne sa più di me di gente messa insieme. Questo non lo so, però è vero, insomma, è una mia passione, mi piace tanto, e quindi non voglio pensare che quella frase fosse rivolta a persone come me, a tante giornaliste come me che lavorano nel mondo del calcio, che sono super professionisti. Anche perché io poi la penso al contrario rispetto a Gattuso, cioè io vorrei sempre più voci competenti e femminili a parlare di sport e non solo di calcio. A proposito della tua passione, ti sorprende di più, Anna Billò, il muggito quasi di disapprovazione di Old Trafford davanti all'ennesima sconfitta, l'ennesima figuraccia di Moyes, sì, oppure lo scivolone di Ibra prima caduta del Paris Saint-Germain ad Evian? Dopo 36 turni di imbattibilità. Dopo 36, sì. Sì, no, direi che per quanto riguarda il Paris Saint-Germain, non dico come l'aspettassi, però quando manca un giocatore fondamentale come Thiago Motta in mezzo al campo, quando non c'è dietro Alex e quando i numeri diventano così grandi, no? 36 turni, cioè, si sente anche un po' questa pressione, e poi vai a giocare in un campo come Evian, non so se l'avete visto, tutta la neve attorno, insomma, non... Ecco, magari il scivolone ci può stare, cioè me lo immagino più probabile. Per quanto riguarda invece Moyes e Manchester United, direi che veramente... È una storia complicata. È una storia complicata, sicuramente fa ancora più male si pensa all'avversario, no? Perché comunque l'Everton ha fatto parte della vita, certo, di Moyes, calcistica di Moyes per molti anni. Esatto. Comunque lo United in diverse situazioni, anche poi quando è riuscito a vincere Pardo, ha avuto grandissime difficoltà, soprattutto a Old Trafford. Secondo te è un allenatore a rischio Moyes, o si andrà avanti così? Ma insomma, se lo United userà gli stessi parametri che usò all'inizio della carriera di Ferguson, aspettando 3 anni e mezzo prima del primo trionfo, allora possiamo essere sicuri che non sia a rischio. La verità è che i tempi sono cambiati. Io credo che sia molto difficile uscire dall'epoca Ferguson, e in qualche modo poteva essere preventivabile questo tipo di situazione, anche se poi Ferguson ha parlato con Moyes e quindi gli ha dato una specie di endorsement all'inizio della stagione, l'ha designato come suo successore. Però insomma, uscire dall'epoca Ferguson non è facile per nessuno. Mi viene in mente, anche se il periodo è stato molto più breve, quello che è successo all'Inter con Mourinho. Io credo che chiaramente sono figure molto diverse, perché Mourinho era principalmente un grande psicologo e seduttore, sì, capace veramente di ammaliare da folla i giocatori e farli impazzire per lui. Nel caso di Ferguson magari la leadership sarà stata un po' diversa per caratteristiche umane, però il concetto è molto simile. Insomma, è una figura talmente grande, talmente ingombrante, talmente carismatica, che chiunque viene dopo, insomma, complicato, molto complicato, anche perché gioca veramente male lo United. Anna Villò, un'ultima considerazione, che è questa: leggo il bollettino medico del Bayern di Monaco, rientra Ribéry, fuori Robben per 6 settimane. Però è abbastanza una costante in questo periodo: le stelle che andranno ai mondiali stanno sedute in tribuna. Questo è un refrain che si ripete ad ogni anno dei mondiali, eh? Prendono la pausa sabbatica, C'è della malizia nella tua domanda. Ma è vero, stiamo già pensando al Brasile. Non lo so, nello specifico, se penso a Robben e ai tanti infortuni che ha avuto in carriera e alla difficoltà di fare tante partite nello stesso anno, non è così sorprendente. Per quanto riguarda la psicologia del giocatore, che voglia essere al 100% durante un mondiale piuttosto che, diciamo, sacrificarsi troppo durante la stagione, questo secondo me dipende troppo dal professionista in questione. o forse pensiamo anche che i giocatori pensino troppo in questo senso. Invece secondo me, dici che non fanno calcoli? Non so, il caso Messi. Ah, se penso a quanto si è offeso Messi quando hanno cercato di dire che appunto ha tirato i remi in barca, che sta pensando soltanto all'Argentina, che quindi si sta chiamando fuori. Non è così secondo te? Ma no, io non credo. Ma io qualche dubbio ce l'ho, ma non solo su Messi, anche su Cristiano Ronaldo. Lo dico, poi, carità, la cosa più, scusa Pier, umana del mondo, poi è chiaro che in Barcellona ti paga lo stipendio, l'adrenalina, le cose da vincere sono ancora tante, ma insomma... la carriera di Messi è anche il ricordo, futura memoria appunto di quello che del Messi calciatore dipende da quello che farà in nazionale, perché dal punto di vista individuale, dal punto di vista di club, ha già vinto talmente tanto che forse giusto un'esperienza fuori da Barcellona potrebbe diventare in qualche modo qualcosa di diverso, qualcosa di risolutivo sul valore assoluto di questo giocatore. Ma il momento in cui ricorderemo Messi dipende dalle 3, 4, 5, 6 o 7 partite che giocherà l'Argentina al mondiale. E questo anche per ragioni anagrafiche deve essere per forza il suo mondiale. Anna Billò, ti salutiamo, ma prima ti tocca il Toto Pallone d'Oro, anche a te, mi spiace. Il pallone d'oro lo vincerà? Sarà? Il pallone d'oro lo vincerà? Sarà? Ribery. Perché te l'ha detto Platini. Non è un mio auspicio, eh? Non è un mio auspicio. Credo che soprattutto la seconda email della FIFA, nella quale ha spiegato che chi aveva già votato prima dello spareggio mondiale non poteva cambiare il voto, ecco. Possa essere un indizio. Vediamo così. Su Twitter, il tam-tam di Twitter invece della notizia di oggi, perché ormai conta solo quello, lo rivince Messi. Speriamo che Twitter in senso lato si sbagli, insomma. Sarebbe davvero clamoroso. Grazie Anna, un abbraccio. Grazie a voi, ciao a tutti, ciao. Pierluigi Pardo, stai lì, Continua a chiedermelo, a chi lo daresti Anna il pallone d'oro? Non lo sapremo mai. Se ci fermiamo per la borsa, poi torniamo qui. Ma io purtroppo non sono tecnologico e non amo molto i social network. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Facendo un'idea che non fatemi dire quello che penso, io penso che uno come Gagliani, per tutto quello che ha fatto, per come ha gestito in tutti questi anni questa società, bisogna avere un po' più di rispetto. Dopo io le donne che li vedo bene nel mondo del calcio, mi dispiace, ma è il mio modo di vedere. Chissà che con queste dichiarazioni Gattuso si sia precluso magari un futuro al Milan, perché si è molto parlato di un suo possibile ritorno, non si sa bene in quale ruolo o posizione al Milan. Intanto Pardo, beccati questo. Vai. Sei? Donne nel calcio, con tutto rispetto, se al posto di Pierluigi mi mettete la Carbonero a Tiki Taka, preferisco. Chi mi dà torto? Scrive Andrea da Pinerolo. Insomma, io ti do ragione io. Andiamo insieme, facciamoci invitare dalla Carbonero come ospite. No, poi c'è un altro messaggio di Elena: non c'è bisogno di arrabbiarsi per cose del genere, tanto rispetto per tutti, è ovvio che una donna bella, giovane, ricca fa incazzare il potere logora chi non ce l'ha. Elena aggiunge un forza Juve che sta lì, vabbè. Aronne, provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno, io vi chiamo per darvi un po' la mia testimonianza, mi riferisco un po' alla persona che ha chiamato prima, dove diceva che ormai si fa fatica a trovare anche nel mondo del calcio delle persone coerenti. Niente, io sono di Castelfranco Veneto e sono compaesano di Francesco Guidolin, come ben sapete voi. Beh, credo che Francesco Guidolin sia un'ottima testimonianza di una persona corretta dentro e fuori del campo. E forse perché lui non lo vuole, ma meriterebbe palcoscenici molto più importanti, anche come la nazionale forse, e quindi ci sono ancora le persone nel mondo del calcio con dei valori. Ma a chi si riferisce come contraltare? Cioè Guidolin è così, invece... Ma credo che lo stesso Conte, come si diceva prima, a volte sia una persona che guarda un passo fuori dalla sua casa, insomma, e come fanno la maggior parte dei dirigenti di questi tempi. Forse questa è una provocazione, però sarebbe bello far tornare Mazzone che si arrampica sulle gradinate quando la sua, se non mi sbaglio, Atalanta o Brescia, sì, forse. Brescia, Atalanta, quell'episodio. Lei dice Guidolina è uno che rispetta le regole, Mazzone invece era, beh, certamente rispettava le regole, ma era uno che viveva la partita un po' come Conte, in maniera non così diversa da Conte. C'è bisogno di tutto, cioè è una polifonia, ci sono quelli alti, quelli bassi, quelli biondi, quelli grassi, quelli più tranquilli nella gestione della partita col profilo basso e quelli più vulcanici. È la vita, è il mondo, e quindi poi, per carità, Guidolin è bravissimo ed è una gran persona e sono d'accordissimo, ma il tema è stato toccato mille volte anche con lui sul fatto che avrebbe meritato panchine ancora più importanti di quella già importante dell'Udinese. Però insomma, il calcio è bello perché è tutto il contrario di tutto, perché è una rappresentazione umana di quello che succede, certo. Per cui c'è Mourinho e c'è Ancelotti. Poi ci sono modi diversi di vivere anche la professione, no? Ci sono modi diversi di vivere la professione, anche di vivere l'evento agonistico. Assolutamente, no? Poi cadiamo nel discorso di Blatter. Pensa a Cristiano Ronaldo e Messi, quanto sono diversi, due giocatori più forti al mondo, fortissimi tutti e due, quanto sono diversi negli atteggiamenti, nella struttura fisica. Il calcio, la bellezza del calcio è secondo me questa, sì. Allargando il concetto, è che è uno sport veramente, certo, universale, uno sport, certo, nel quale poi ognuno può trovare il suo posto, poi 1,60 e uno alto 2 metri. Poi vedi, Conte comunque è uno che crea opinione, che divide. Io l'ultimo messaggio che ho è questo: Conte dà fastidio perché dice quello che pensa e dice le cose come stanno. Ovviamente ce ne sono moltissimi anche di segno opposto, è chiaro che uno che parla e vive la professione in questa maniera, destinato a spaccare, a dividere, a fare opinione. È una sola cosa che è oggettiva e sono i risultati, per Conte come per Guidolin. Gli allenatori bravi, sì, sono allenatori bravi, non è che c'è, su quello non si può, non ci sono discussioni. Il calcio, da questo punto di vista, e lo sport in generale, ha una morale altissima, perché ha la morale del risultato. E il risultato, che può sembrare certe volte un qualcosa di brutto, se ti leghi soltanto a quello, però in realtà qualcosa di ossessivo, però il risultato è quello che è la cultura del merito, no? Sicuro, cioè, ma sicuro in pochi, sicuro, altri campi della vita umana c'è una tale meritocrazia. Capito? Saluto, salutiamo Michela Calcagno. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Michela, vuoi rispondere anche tu a Gattuso? Ma io sentivo adesso il discorso che faceva Pierre e condivido che insomma il calcio ha in sé tanti elementi diversi, però io devo dire una cosa: a me piacciono molto gli allenatori all'Antonio Conte, gli allenatori alla José Mourinho, che si agitano in panchina, che fanno dichiarazioni mai banali, che spaccano l'opinione pubblica, insomma questo è lo stile di allenatore che preferisco, ciò anch'io, non toglie poi che ci anch'io siano altri allenatori molto bravi. Vi sentivo parlare di Guidolin, per me è vero che è un allenatore che meriterebbe panchine più importanti, senza nulla all'Udinese, io lo vedrei anche bene sulla panchina della nazionale, tra l'altro, Guidolin. Però insomma a me piacciono un po' più i tipi sanguini in panchina. Sì, anche a me, sono d'accordo, l'ho detto molte volte. Fa parte della vita, cioè se tu vai a una cena con 10 persone, ci sta quello che è più esuberante, ci sta quello che è più timido, cioè non è altro che la rappresentazione umana di quello che viviamo ogni giorno nelle redazioni, sui posti di lavoro, nelle cene, nelle amicizie, quindi c'è. Ad esempio Pierre è un tipo pacato che sta sempre, sì, in silenzio, è uno pacato che non parla, che devi tirargli sembra, fuori le parole con sembra quasi di non averlo in redazione, taciturno, profilo basso, vagamente depresso, così un po' cupo, no? Sì, certo, non canta mai, non imita mai nessuno. Esatto. Ma io ho fatto nella facciamo qualcosa per lui. Lavoravo per una multinazionale, ho avuto due capi. C'erano queste riunioni internazionali, facevamo marketing, c'erano queste riunioni internazionali. Allora, il primo dei due diceva, io ero molto, insomma, ero giovane, mi diceva: mi raccomando, in questi meeting tu pensaci mille volte prima di dire una cosa, perché potrebbe, qualsiasi cosa può essere usata contro di te. Poi il capo successivo mi dice: beh, però se tu vai a una riunione qualcosa devi dire, cioè non è per stare lì due ore a pensare, cioè devi lasciare un marchio, un segno sulla cosa. Alla fine questo tipo di discorso vale sempre comunque nella vita, no? Poi c'è quello che rimane un po' più timido e che magari ha paura di esporsi, e quell'altro che invece gode nell'esporsi. Sì, sì, sì. A me stanno più simpatici quelli della seconda categoria, nei limiti dell'educazione. Siamo già in tre. Siamo già in tre. Senti, Michela, secondo te come va a finire la... quali saranno gli sviluppi della vicenda Milan? Perché anche ieri una giornata difficile con queste dimissioni di Braida su Twitter, poi ritrattate. Braida va, seguirà la squadra nella trasferta a Livorno, se non ricordo male. È una cosa molto complessa questa vicenda, anche nella gestione quotidiana, perché ogni giorno ne salta fuori una. Sì, è una gestione molto complessa, e soprattutto anche la vicenda dei due amministratori delegati. Bisognerà poi vedere a livello pratico come sarà attuata, perché sai, una cosa è decidere sulla carta e una cosa poi attuare un programma. Credo che sarà una convivenza non facilissima, anche perché le idee sono molto diverse. Da una parte c'è l'esperienza di Adriano Galliani, dall'altra parte c'è la voglia di innovare, di cambiare, di Barbara Berlusconi. Quindi io credo, insomma, ho sentito anche in questi giorni parlare di nomi, e si fa quello di Sean Sogliano per quanto riguarda il direttore sportivo, però è anche vero che, insomma, Adriano Galliani avrebbe preferito magari Daniele Pradé. Quindi non mi sembra che ci sia poi tutta quella convergenza anche sui nomi. C'è una figura però importante, che è Silvio Berlusconi, che in questo momento è in grado di unire tutto e ha unito per il momento due anime diverse. Bisognerà vedere poi però a livello pratico quanto ci sarà unione. Un'ultima posso dire che Pradé in questo momento è il dirigente sportivo italiano, secondo me, più importante che c'è, più illuminato? Beh, insomma, io credo che se diamo il premio della critica per quello che abbiamo visto negli ultimi due anni, insomma, la Fiorentina è qualcosa di oggettivo, oggettivo, perché gioca un calcio alto, perché con uno staff di osservatori, non solo Pradè, perché ha un'ottima organizzazione la Fiorentina. Assolutamente, però voglio dire, è la società in questo momento, è la cosa più interessante che ho visto personalmente negli ultimi 2-3 anni, oltre ovviamente all'Udinese che fa quel lavoro lì da tanti anni, ma in una società medio-grande vedere una preparazione così straordinaria nell'andare a pescare i giocatori dall'estero, nel prendere i giocatori che sono funzionali a un'idea di gioco, sicuro, che vuole portare avanti con l'allenatore. Questo è sicuro, è tanta sicuro roba, come diciamo noi giovani. Grazie Pier, ci sentiamo domani, quando volete. Io qua Michela, ciao Pier, ci vediamo dopo. Ma senti, non te l'ho chiesto Michela, ma sì, della dichiarazione di Gattuso: non vedo bene le donne nel calcio, come, cosa ne pensi? Penso che non capisca niente. Le donne nel calcio ci stanno benissimo, ci sono donne che stanno di calcio come gli uomini, forse più degli uomini, quindi penso che, insomma, non mi piace, è una dichiarazione che non mi piace assolutamente. Sembri Conte. Eh? Sembri Conte, grande. No, non mi piace, insomma, non piace nemmeno a me. È vero, tutti ci rinfacciano: le donne non avete giocato a calcio. A parte che non è vero, perché io a calcio ci ho giocato, certo, a livello così, insomma, giovanile, per divertimento e non per agonismo. Io credo che ci siano molte donne che di calcio capiscono, e come, non me ne voglia Gattuso, però non corpo fatto con lui. No, non deve volertene, ma Gattuso è una persona intelligente. L'ha detta così, ma secondo me si è anche accorto di aver detto una sciocchezza. Grazie, ciao. Grazie, un abbraccio. Ciao, un bacio. E qui entra in ballo, secondo me, l'educazione sportiva, la cultura. Cioè, questo è stato un chiaro, secondo il mio modo di vedere, episodio di emulazione. Ma gli esempi dovrebbero essere quelli positivi, dovrebbero essere tutt'altri, dovrebbero essere di altra natura. Tutti convocati. Tutti convocati. Convocato Maurizio da Milano. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. No, volevo intervenire per quanto riguarda la dichiarazione di Gattuso. Sì. Premesso che io sono d'accordo con lui, che anch'io non le vedo molto le donne. Ma perché? Nel mondo del... Perché? Perché non hanno mai giocato a calcio, perché ce ne sono poche, quelle poche che c'erano. Però Maurizio, non tutti quelli che operano nel mondo del calcio hanno giocato a calcio. Magari all'oratorio, magari. Sì, però volevo dire, un'altra cosa io, in realtà. Questa dichiarazione è fatta da Gattuso, tu o lei l'ha definita tra il serio e il faceto. Se l'avesse detta, faccio per modo di dire, Cassano, Balotelli, anche, ne so, il presidente del Palermo, gente di questo tipo, sicuramente l'avrete interpretata in un'altra maniera. Credo anch'io. Queste sono i giornalisti che la interpretano. No, è la valutazione delle persone, perché credo che Gattuso sia un ragazzo estremamente intelligente. Ok, d'accordo, però allora, se Cassano, quando ha detto la famosa frase degli omosessuali, l'avesse detto a Gattuso, non sarebbe successo assolutamente niente. Il fatto che Gattuso, allora non abbiamo la controprova, ma Gattuso una cosa del genere non l'avrebbe mai detta. Ok. Io sono di quest'idea. Io ho un grande rispetto per l'intelligenza di Gattuso, che è sempre stato il vero grillo parlante nel Milan e nella nazionale. Dice cose mai banali, dice cose molto ficcanti, molto anche molto murignane, se vogliamo. In questa particolare situazione non mi trovo d'accordo con lui, però so perfettamente che l'ha detta con quel tenore, quindi non è caso di insistere. Poi oggi abbiamo preso questo pretesto per parlare con alcune bravissime giornaliste sportive di calcio, ma questo lo sapete anche voi. Io dico che non è necessario aver indossato le scarpe con i tacchetti per poter capire lo sport, non solo il calcio, per poterne parlare. Quindi io vedo, anzi, a me piace molto sentire donne, voci femminili competenti parlare di sport. Roberto Torino, buongiorno. Buongiorno, intanto fare i complimenti per la trasmissione, condivido Grazie. Anche la sua dichiarazione quest'ultima, ma anche la prima. Le donne certamente devono esserci in ogni settore, ma poi soprattutto anche la prima riguarda l'educazione, l'emulazione che dovrebbero dare, o comunque che sono soggetti bambini. Sì. Ma un caso specifico mio, i miei figli di 9, 13 e 18 anni andiamo allo stadio, ma non hanno mai, ma le assicuro, detto una parolaccia. Uh-huh. Quindi al di là che in campo li dicano, oppure a scuola o quant'altro. Come diceva lei l'altro giorno, l'educazione spetta a noi genitori, a nessun altro. Poi certo, le scuole, le compagnie e quant'altro. Io la penso così e continuo a pensarla così, anche se ieri ha chiamato un ascoltatore, il quale aveva ragione, insomma. Poi non vorrei più, a voi piacendo, perché poi è chiaro che i vostri interventi sono e saranno per sempre a schema libero all'800240024, però mi sono trovato d'accordo con un ascoltatore che ieri era chiamato e ha detto: allora, quei bambini erano allo stadio, non erano da soli, erano accompagnati, c'erano degli adulti, c'erano degli accompagnatori, e allora forse era compito di quegli adulti, nel momento in cui i ragazzini hanno cominciato a fare quel coro, andare da loro e dire: ragazzi, basta con queste cose, basta. Forse poteva essere risolta in questa maniera, che secondo me poteva essere quella corretta. Ornella sta con Gattuso, se posso dire la mia. Ornella scrive su Twitter: Gattuso è sempre no filter, non capisco che motivo ci sia per arrabbiarsi, ma nessuno si arrabbia, semplicemente se ne discute. Prima di Roberto da Torino voglio farvi sentire una cosa, un frammento di una divertente conferenza stampa di Claudio Ranieri, che tra l'altro ha vinto il derby con il suo Monaco e si sta avvicinando al Paris Saint-Germain. No, perché lui con Raggi c'è un po' di stress l'italien, no? Perché l'italien, c'est très dur l'italien. E donc, lui m'ha dit: mister, c'è... No, je l'ai dit, reste et jouez. Et après, Carvalho, Abidal me dit, coach, Raji. Et donc, j'ai fait l'échange. Lui est venu et dit, j'étais bien, je suis bien. Et parce que tu nous me l'as dit. Tu m'as dit que c'est mal. Je te dis, reste. Et tu comprends, me dit que c'est mal. Je te change. Et après l'échange, tu m'as dit, avant l'échange, que c'est bien. La comunicazione, il linguaggio, no? Entre italiani e italiani è très difficile. Grandissimo. Okay, infatti, facciamo un applauso, peraltro finto, perché abbiamo quello registrato a Claudio Ranieri. Sembra una pièce teatrale, ma viene anche sospetto che quel giorno avesse quasi ragione Mourinho, con tutto rispetto per e l'ammirazione per Claudio Ranieri. Mourinho cosa disse? Io ti faccio una domanda. Tu pensa che un allenatore che durante due mesi ha studiato italiano 3, 4, 5 ore per giorno, per arrivare per prima volta in un paese nuovo, per parlare per prima volta con giornalisti, per parlare per prima volta con tifosi, e che ha imparato, non dico che parlo bene, ovviamente sbaglio tanto, ma il sufficiente per arrivare e poter comunicare con il paese, con le persone, con i tifosi, con i giornalisti, tu pensi che è mancanza di rispetto? Chi parla adesso Ranieri, che è stato in Inghilterra 5 anni, per dire buongiorno, no, good afternoon and good morning, per lui è stato un grande problema dopo 5 anni. Lui che rispetta i tifosi inglesi, lui che rispetta il giornalista inglese, mi va adesso a me parlare di che? Questa via ricordata, è una delle più famose. Non elegantissimo qui Mourinho, anzi, piuttosto cafone in questa situazione. Allora, sento Mourinho, mi viene voglia, prima di dare la linea al giornale radio, di leggervi gli arbitri della giornata. No, non posso, lo faccio dopo, va bene. Tutti convocati. Tutti convocati sempre all'800240024, oltre che su Twitter, oltre che con i messaggi SMS 349-238-6666. C'è chi scrive, ne ho visto uno interessante a proposito del dibattito donne e pallone. Quanti nel mondo della Formula 1 non ne hanno mai guidata una? Ma dai Gattuso, scrive Paolo da Bergamo. Io invece ho ricevuto una mail che vi voglio leggere di Lorenzo Gibertini, che è di un maschilismo, anzi direi di un macismo un po' triviale. È questo. Questa è la mail. Il livello di ipocrisia è a dir poco fastidioso. Questo buonismo, io ringrazio perché ogni tanto mi definiscono buonista, di solito le cose sono diverse, ma comunque apprezzo molto questo termine. Questo buonismo da oratorio stantio come una ciabatta rotta, Gattuso, è stato offensivo con chi? Mi dica quante donne si interessano e si intendono di calcio, e chi si offende se si sottolinea che una donna sta al calcio come Berlusconi sta alla fedeltà coniugale? Quante donne si interessano e si intendono di motori? Beh, parecchie, io direi, ma questo lo dico io, non l'ascoltatore. Quante donne vanno a caccia? Non si può dire? Si offende qualcuno? Sua nonna per caso fumava il sigaro? Gente, per favore, un po' di animo su, per noi lei è buono lo stesso, ma non sia scontato nel stare attento a non offendere nessuno. Dico quello che penso, tanto per cominciare. Dico che secondo me questa è una presa di posizione estremamente macista che non condivido. Dico che ci sono... per fortuna non solo nel calcio, ma nelle aziende, nelle banche, nei giornali, in questa radio, delle eccellenti professioniste che valgono tanto quanto i colleghi maschi. Ma mi sembra un discorso da chiudere qui, perché sennò si fa notte fonda. Ero rimasto in sospeso con gli arbitri, non me li avete fatti dire prima di girare, sono questi. Sarà, visto che è un tema che appassiona molto e molti, non me. Comunque, Orsato di Schio ad arbitrare il big match della 15ª di Serie A, 12:30 Roma-Fiorentina. Domenica, naturalmente. Bologna-Juventus di domani sera, 20:45, è affidata a Mazzoleni di Bergamo, mentre Livorno-Milan e Napoli-Udinese di sabato, in programma alle 18 e alle 20:45 rispettivamente, verranno dirette da Guida e da Gervasoni. Cosa ne pensate? Non lo so. Marino Trani, buongiorno. Buongiorno, salve. Senta, io porto la mia esperienza personale. Io sono andato per 2 anni con le mie 2 figlie a Torino, le ho portate, perciò abbiamo fatto anche un bel viaggetto. Praticamente le mie 2 figlie hanno 13-17 anni. Non sono andato in curva, però è chiaro che dal primo momento, quando abbiamo sentito la prima volta il coro famoso, ormai è inutile ripeterlo, subito dopo il coro è scattata automatica la risata, ma da parte di tutti quanti. Cioè, questo per dire che in realtà è una cosa abbastanza goliardica. È chiaro che poi, sentendo anche altri cori, ho commentato con le mie figlie che chiaramente anche loro erano d'accordo, anzi mi hanno detto loro che non erano assolutamente da ripetere e era sbagliato di farli quegli altri cori. Ma quello è, l'abbiamo vissuto veramente come una cosa molto molto goliardica, molto sì, ma... così leggera, non come allora... un insulto. Gli insulti, che secondo me sono altri. Ma guardi, allora, non credo di essere un cattivo educatore. No, Marino, ma certamente lei non lo è, però stiamo attenti, perché siamo d'accordo sul fatto, io la penso come il mio amico Pardo, e l'ho sempre detto: lo stadio non è una chiesa, lo stadio si va per per fare il tifo eventualmente, per, anzi certamente per fare il tifo, e qualche volta può succedere di dire la parolaccia, eccetera. Sono tutte cose vere, però stiamo attenti, perché il confine tra quella che è la pura goliardia e quella che non lo è e diventa qualcosa di fastidioso, se non di pericoloso, è estremamente labile. E mi viene sempre in mente la storia del carro armato dei tifosi dell'Atalanta, non so perché. Quindi il confine tra, ripeto, tra il goliardico e lo scivoloso è molto sottile. Poi possiamo metterci dentro anche la discriminazione territoriale e tutte queste altre cose. Intanto vorrei cambiare discorso, perché questa sera, ieri sera c'erano 13.000, è tantissimo vedere Inter Trapani di Coppa Italia, ma questa sera c'è un record a Milano, record sotto il cielo di Milano, perché il forum sarà tutto esaurito per l'Olimpia del basket. Arriva il Real Madrid e se Milano vince passa il turno, e sarebbe il primo grande risultato, primo importante, non grande, importante risultato di una stagione iniziata non benissimo per l'Armani. Luca Chiabotti, inviato della Gazzetta dello Sport, ciao. Ciao, ciao a tutti. Finalmente una grande notte, Luca? Sì, sì, tutte le, non mi ricordo l'ultima. No, forse non c'è neanche mai stata, e non tornando veramente indietro a quando si decidevano a Milano coppe importanti e campionati. Questa è un po' diversa, potrebbe, ecco, la cosa che non sopporterei è che ci fosse una brutta partita. Tutto il resto va bene, perché tutto il resto è spettacolo, bello, Milano che torna a vedere un po' di convoglia della pallacanestro, anche per divertirsi un po'. È abbastanza difficile definire brutta partita, una partita bellissima da pallacanestro può essere anche una partita che finisce 51-50. Io mi auguro che sia una partita intensa, di quelle che tengono questi 12.000 lì incollati e che rimandano a casa senza un filo di voce. Esatto, esatto, anche perché l'unico modo che ha Milano per fermare questa squadra che quest'anno sta battendo tutti i record statistici e di risultati, e farla giocare male, inteso non farle fare quello che lei predilige, cioè correre, dare spettacolo, buttarla per aria per le schiacciate che arrivano. Ecco, paradossalmente Milano non deve far spettacolo, perché se no perde di tanto. Nello stesso tempo speriamo, come dici tu, che l'intensità della partita ripaghi, e anche il fatto che il Real è già qualificato non gli tiri dietro qualcosa che in realtà 12.000 persone invece vorrebbero vedere in tutto il suo splendore, anche a rischio, credo, di perdere la partita. Sì, vietato run and gun per Milano, quindi ritmi bassi e soprattutto tanti minuti, almeno secondo me, per Keith Langford da playmaker. Perché vedi, Luca, l'altra sera contro l'FS Pilsen forse è stato un momento importante in questa fase di crescita dell'Armani. Io penso che di due playmaker costituiti, cioè quelli designati, Gerrels e l'altro, ne facciano uno, cioè non facciano neanche un giocatore. Ha cominciato a giocare playmaker Langford, che è un giocatore che partiva con la palla in mano, e la partita è stata cambiata in maniera totale, e ho visto che su questa falsa riga poi Banche ha proseguito. Assolutamente, perché questa è la vera anima della squadra. Peraltro stasera, proprio per le caratteristiche dei giocatori del Real, che difendono in un modo particolare, però non sono dei mastini nelle guardie, Gerrels dovrebbe essere un giocatore chiave, uno che dà il rimo, che si butta dentro, che li attacca. Non lo so se sarà proprio così, tante volte le partite sulla carta sono molto diverse da quelle che si vedono alla fine. È chiaro che nei momenti decisivi poi la palla sappiamo a chi dovrà andare, e probabilmente, sì, come si è visto negli ultimi tempi, saprà anche cosa farne. Ecco. Sì, definisci, dai una definizione di sogno per Brindisi. Sogno per Brindisi è quello che sta vivendo. Sembra Marzullo, lì. Sì, essere lì, perché chiaramente nessuno se lo aspettava. In realtà, come ogni tanto succede, delle squadre imbroccano, pur se costruite in un'estate, la formula giusta. E Brindisi ha tutto per far bene fino alla fine, sì, perché soprattutto è molto atletica, è una squadra moderna, molto atletica, con giocatori diciamo, alla Gerrels anche, ma che invece la palla la passano e quindi che completano un po' il quadro. Quindi il sogno la passano dovrebbe... perché sono capaci. Esatto, lo passano perché sono capaci e vedono soprattutto dove passare, magari un secondo prima che di essere soverchiati da tre difensori avversari. Ma secondo me il sogno lo sta già vivendo e il sogno sarebbe andare avanti così e regalarsi un palazzetto degno di questo bravo, nome, perché bravo. Lì siamo, secondo me il sogno veramente è il palazzetto. Alla preistoria, non sì. Neanche alla storia, siamo alla preistoria. Siamo alle grotte, sì. siamo alle grotte. Invece, per chiudere, Luca, leggevo oggi questa notizia, anche qui è un primato storico. Allora, partita NBA che si doveva giocare in Messico, dopo 16 anni NBA arriva in Messico per San Antonio di Beninelli contro Minnesota. Un casino pazzesco, un guasto a un generatore, fumo sul campo, partita rinviata. Anche questo è un primato. Sì, soprattutto per quei per quelle latitudini. È vero che il Messico non è negli Stati Uniti, ma di solito la funziona tutto in modo perfetto. Io mi metto nei panni di quei poveretti di spettatori che si sono persi il gusto di vedere una cosa unica, per la quale tra l'altro ci tengono, perché è inutile dire che tre quarti dei tifosi di San Antonio Spurs sono ovviamente ispanici, certo. Vengono dall'altra parte del confine e quindi le grotte non ci sono soltanto a Brindisi. No, diciamo che qui è stata una spiacevole situazione, sì. A Brindisi è una situazione che dagli anni 80, quando hanno costruito questo palazzettino, che ai tempi festeggiavamo come che bello, la novità, la nuova idea, come l'avevano chiamato, e che adesso è un'idea che un po' vetusta, mettiamola così. Grazie Luca. Arrivederci a tutti. Grazie ciao, a Luca Chiavotti. Grazie a Franco Piatrini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Siete tutti convocati domani alle 14. Ciao. Come la storia della nazionale non nazionale svizzera. È vera sta cosa? E oggi Petkovic ci ha smentito un secondo fa. No, ha smentito il secondo contratto. Che devo fare io? Metto l'ispettore, metto adesso Sherlock Holmes, metto a vedere se sono contrario.